They played and played to their hearts. Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Pacto discum donna. Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tu pinche bebé, dalle 17, 87 y 9 de Radio Onda Rossa. Pueblo se tiene que unir para luchar. Para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora oggi aspettando i nostri ospiti, intanto cominciamo con calma, ma c'è una cosa che vi voglio dire. Che oggi saremo direttamente ascoltati probabilmente dall'Argentina, dove cumbia hasta el lunes. Insomma, ha scoperto, gli sono andata a bussare e gli ho detto, insomma, succede questa cosa in questa piccola radio indipendente, così. Perché insomma, un giovane piccolo gruppo. Se lo facciamo con i nostri, perché non anche con i cumbieri in giro per il Latino America? E allora cominciamo con un po' di cumbia, poi passeremo sicuramente anche per Cumbia Hasta el Lunes, ve l'ho detto mille volte, il loro bellissimo disco intitolato Ciel, che non significa altro che una bella bottiglia di birra da 33. Così, scambi internazionali di cumbia, perché come da sigla la cumbia è il futuro. E allora cominciamo con molta calma, tanto io lo so che state tutti un po' sotto le pezze, a farvi le coccole, costumido, freddo, certo non fa, ma le giornate come queste, ecco, tendono ad avvicinare, a scaldarsi, diciamo così, muovono i corpi uno verso l'altro come delle calamite. E allora oggi un po' di romanticismo non fa mai male. Los Reyes della Costa con Marta Cecilia, molto con calma. Gioia della Costa, dunque, quando si fanno le 17.07 parte il primo compleanno di oggi, eh? Brando! Posso chiamarti Brando, vero? Un Brando che non esiste, in quanto, ecco, fa parte di questa entità strana che si occupa della tecnologia di Radio Onda Rossa. Cielo, ti so valere il tetto e la corona, ti so valere il tetto e la corona. Ma esiste, esiste neanche nel suo essere Brando. Ve scardate troppo, eh? No, scherzi a parte, tanti auguri. Un abbraccio virtuale dalla radio. Eres una cosa esatta, hai a todita la mia sota. Non so quanti anni fai, ma beato te. Una cumbia tranquillita questa, con l'accordeon a fare veramente da voce principale, come capita spesso soprattutto nella cumbia colombiana. Attenzione, perché ci sono. Ahí están escuchando, Come vi avevo detto, cumbia sta il lunes dall'altra parte della manzana, dall'altro lato della grande mela. Direttamente dall'Argentina in streaming da Radio Onda Rossa, quindi che ci ascoltano. Allora, ciao, cumbia sta il lunes, ben trovati, benvenuti. Allora, cerchiamo qualcosa di un po' più movimentato. Loro sono anche abbastanza un must, non solo della cumbia, ma anche dello ska. Si chiamano Los Angeles Azules. Cumbia della playa. Y la familia Mejía Vance. De Iztapalapa. Para el mundo. È bene pensare un po' alla playa oggi, che qua veramente sta venendo giù un aguacero gigante. El San Ignacio, Santa Bárbara y el barrio de la Asunción. Ahí les va el sabor. Una Roma coperta di grigio. Certo, se le bombe le tira solo il principale dalla sugia, da riflettere, eh? Sicuramente meglio queste bombe d'acqua che tutte quelle di cui sentiamo parlare. Azules. de poco de ti. Solo paseo este fraseo en el fin. Solo poseo este deseo. Sé que no eres un trofeo, pero te quiero pa' mí. Somos el mar y la noche, estamos juntos al fin. Contigo me siento el king, baila mi reina. La playa retumba, los ángeles bajaron del cielo tocando cumbia. Bajo la luna seductora inmortal, pude sentirme real por un momento. Al golpe de tambores mientras tocaba tu cuerpo, sigo soñándote aún estando despierto. Sigo buscándote aún al paso del tiempo. Ándale. Giustamente con questi climi c'è chi pensa ad altre bombe, ecco, insomma, mi associo, il pensiero va lì. Levateci pure questo, non lo so io. Detrás del güiro, el bajo y el acordeón. Hablando humo, estoy tumbando el cantón. Número uno, reventando el camión. Los angelitos y la banda bastón. Estoy pensándola, sé que está sola. Estoy buscándola entre las olas. Estoy pensándola, sé que está sola. Estoy buscándola entre las olas. Estoy pensándola, sé que está sola. Estoy buscándola entre las olas. Estoy pensándola, sé que está sola. Estoy buscándola, me descontrola. Estoy buscándola, me descontrola. Estoy buscándola, me descontrola. Estoy buscándola, me descontrola. Ella resuena en mi cabeza como una pistola. Igual que una pistola. Una cumbia partita alla conquista di Roma. Ci lasciano Los Angeles Azules e allora, avendone ospiti nonostante siano lontani, come non passare un disco che ormai è un ospite quotidiano, diciamo settimanale, delle nostre trasmissioni. Abbiamo parlato di romanticismo e allora rimaniamo in una romantica terrazza con cumbia hasta el lunes. En la terraza, una mañana después de una noche larga, que me recuerda corazón ese momento en el que yo te conocí. Muy despacito, una canción en el oído me cantabas. Yo lo deseaba, corazón, desde el momento en el que yo te conocí. We'll Insomma, giovani musici dall'Argentina, Cumbia Style Lunes, con questo disco che insomma vi consiglio di andare a vedere anche sul tubo e andare ad ascoltare perché è veramente molto piacevole. Allora, chissà, da qua alle 6 ne passiamo ancora, perché insomma questo disco mi ha mandato a rota, che vi devo dire. Ma insomma, nuova uscita anche quella di Celso Piña, lo sapete, un grande accordeonista maestro della cumbia. E allora, come mancare con Reina de Cumbias? Un saluto ma anche alla mia maestra preferita, che pazienza che c'hai sorella. Beati bambini, eh. Dalla Patagonia al nord del Messico, passando tutti gli oceani, arrivando fino a Roma, la cumbia dunque. Il prossimo brano, lo sapete, loro sono un conjunto, un gruppo chiamato Sonora Marta la Reina, mi mandano veramente in fissa. Noi ci ascoltiamo la regina del Rosetto, la reina del Rosedal. Scende la notte su una Roma un po' umida, eh? We'll be right back. si chiamano Gachupé. Mentre arrivano un po' di richieste surfiste, lo famo tutto, facciamo. Allegria, magia de reírnos juntos al amanecer. No había momentos pa' lamentos, serán solo algún recuerdo, lo que te llenaba el alma, una canción. Porque cada vez que intento no comprendo si el pasado pudo haber sido mejor. Esas tardes de armonía brindando con alegría la ilusión de recordar aquella voz. Y volverán los días de alegría, las calles frías de aquel atardecer. Amor, el sentimiento, algo que tengo aquí dentro, un amor que fue perdiendo la pasión. Y volverán los días de alegría, las calles frías de aquel atardecer, viendo a ese perro que paseaba todo el día. Chicano, formato da messicani che vivono in Messico ma anche che vivono negli Stati Uniti. Infatti spesso di loro abbiamo sentito una canzone intitolata Ice El Hielo, che descrive molto bene anche la condizione di tanti migranti messicani negli USA. Loro sono sempre la Santa Cecilia, questa volta con un brano un po' più tranquillito. Ce l'andiamo ad ascoltare, una bellissima cumbia morada. E fatevi calduccio anche per me. Esta noche me lo llevo. Si me gusta me lo quedo y me lo traigo a casa. Con el humo de tus besos, yo ni voy a darme cuenta que las horas pasan. He esperado 4 días. Una alegría, sé que tú me la darás. Fuego, cuando respiro me quemo, me haces volar por el cielo y no me quiero bajar. Fuego, cuando me tocas me muero, de ganas me desespero y no te quiero soltar. por el suelo. Nos cruzamos el desierto como dos camellos. Resucita hasta el abuelo. El perfume de la nube todo lo hace de Dios. Buona 17:34 minuti. Gli 87.900 di Radio Onda Rossa. En aquel mar me comió un curanto, con vinito blanco, almeja chorre mil cao. Y en la costanera me quedé dormido. Ay, qué rica siesta después de haber comido. Esta es la magia, señores, señor de este puerto lindo. No se vaya a irse sin haber comido el rico curanto de los palafitos y su vinito blanquito rico y heladito. En Ángel Mao me comí un curanto con vinito blanco, almeja chorro y milcao. Y en la costanera me quedé dormido. Ay, qué rica siesta después de haber comido. Entre la magia, señores y señor, no hay otro lugar. Sopa y pilla con pebre y con vito al mar. Y la chiquilla de la cocina lo van a atender. Marisquito fresco del mar a su paladar. En Ángel Mao me comí un curanto con vinito blanco, almeja chorro y milcao. Y en la costanera me quedé dormido. Ay, qué rica siesta después de haber comido. Esta es la magia, señores y señor de este puerto lindo. No se vaya a irse sin haber comido el rico curanto de los palafitos y su vinito blanquito rico y heladito. En Ángel Mao me comí un curanto con vinito blanco, almeja chorro y milcao. Y en la costanera me quedé dormido. Ay, qué rico. allora, come dicevo, alle 17:37 minuti andiamo ad esaudire una richiesta pure piuttosto alle grotta, quindi lo facciamo con così, con gioia. Allora Luca, i surfisti che stanno un po' in crisi perché questa è una stagione in cui non si surfa, mannaggia, al di là delle previsioni. E allora da Luca a tutti e tutti i suoi amici e amiche surfisti un bellissimo pezzo, Scapè e il Gatto Lopez. Duele dir, mientras que hombres y más hombres tuvo que vivir, la calle le hizo por tal y se reveló, y es que tira el dinero, es un gato real. Su madre callejera, su padre es siamés, tiene 20 hermanos y un carabanchel, busca en la basura algo que comer, y es que tira el dinero, es un gato real. Lo que es algo especial, desde cachorrito ya bailaba ska, sus botas, su chaleco, su forma de andar, su estado practicado, es un gato ska. Già che surfate d'inverno avete tutta la mia stima. Io tra un po' manco a luglio, mi faccio il bagno, se l'acqua è fredda. E allora c'è un sacco di ospiti dall'Argentina, Cumbia Stellunes, ma qui in studio sono arrivati, eh? Scasso, preparatevi perché ci sarà una bella sorpresa il 14 novembre. E noi invece torniamo in Latino America, proprio in Argentina, mi pare. Ci allontaniamo un po' dalla cumbia. Questi sono musici de verdad, anche loro molto acustici, eh? Una banda tipo di più di 10 persone, si chiamano El Manijasso. Y tras tantas he perdido, me he callado tantas veces, que hasta me morfé el envido. Pero las cosas cambiaron, y he aprendido en el camino, que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. Me he callado tantas veces que hasta me morfé el envido. Pero las cosas cambiaron y he aprendido en el camino, que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. Fabricaste este veneno de ignorancia y con receta vos me hiciste resentido. Mal borrágico y mesa, este monstruo camarache argentino. Y sin careta vas tranquilo por la vida porque se te ve fulera. Ninguna, nunca llegamos a la luna. Anda a cantarle, voy a Gardel. Ay, cuchillito que no corta, y aunque tenga por la torta, a mí qué carajo me importa si soy feliz así. acá plantado, aguantando la parada, siempre estando cerca tuyo y que sientas mi mirada. Vos me hiciste que me pare de este lado en la vereda, donde siempre pega el sol y no hay ninguna estrella que te garúe finito. Te cantamos de este lado, caminamos por la sombra, te tenemos bien junado. No, ya no me morfo ninguna, nunca llegamos a la luna. Anda, cantame, voy a darle. A mí qué carajo me importa si soy feliz así. Allora, noi continuiamo un po' tra samba e cumbia, questa volta con la cartellera ska. Então, em plena Argentina, aí visitando nosso amigo Ratelera. Nosso amigo Ping. Una samba cumbia, che secondo me non è né una cosa né l'altra, però ci piace lo stesso. Buono, entendeu? Di samba non ce ne sento proprio tanta. Sono un po' allergica alla samba, capito? Mi gratterai subito. 17:45, ma oggi si sfora perché abbiamo qua gli scasso tra pochissimo, alla fine di questo brano entriamo in voce, andiamo a farci un po' gli affari loro. Vestida con roba de calle, vestì la sua essenza al camminare, su figura se destaca. Cuando pases de entonada, ningún ojo la puede esquivar. Procura la moral ajena, censurarte por salvaje y vulgar. Y a Satán en las caderas y en el convento manosea, degenerando una crianza más. Y aquella gran obra de arte que no tiene dueño, la natural influencia en el llanto y su reír. Le imponen costumbre extranjera, le van cambiando la lengua, le hacen turistas a su souvenir. Esencia al caminar, su figura se destaca. Cuando pases en tonada, ningún ojo la puede esquivar, ya que esa gran obra de arte que no tiene dueño, la natural influencia en el llanto y su reír, le imponen costumbre extranjera, le van cambiando la lengua, le hacen turistas a su souvenir. Voi lo sapete, la tecnologia a me mi boicotta sempre. So di un'altra generazione, ma insomma, il primo computer l'ho avuto per la tesi di laurea praticamente, ma sono una sveglia, ecco, Allora, noi intanto andiamo avanti, tanto come sapete ormai ho occupato la radio, faccio come voglio, e allora un po' di gruppi che abbiamo lasciato da una parte perché stanno praticamente in tutte le puntate, lo sapete, la Delio Valdés, uno dei must della cumbia colombiana, e allora come non infilarceli anche oggi? 17, 55 minuti. Allora, mentre inizia un'altra, io li sistemo per le feste. Ma musici, ma sono timidi, eh? Io intanto comincerei a fare due chiacchiere. Qua la tecnologia mi boicotta, casomai adesso intanto mi invento qualcosa. Certo, caro Tech Block, un estrattore d'archivi almeno in uno dei due computer in regia lo potremmo mettere. Poi ci staccate le mani, se noi scarichiamo qualcosa non va bene, eh? Adesso, scherzi a parte, dopo questo rimproverino al Tech Block, questa entità invisibile che oggi compie anche gli anni, benvenuti Scasso. Allora, dovete parlare col microfono come se ci doveste un po' appomiciare, lo so, sì, è anche un esavalente, vi fate anche un vaccino da paura intanto, voi non lo sapete, su queste spugnette. Allora, un giovane gruppo ska, no? Perché comunque siete un giovane gruppo ska, quant'è che siete insieme sotto forma di Scasso? 6 anni all'incirca, 6-7 anni. 6-7 anni? Avventura, sì, sì. E come nasce questo gruppo, come si trova, come si incontra, come... Nasce tra i vicoli di un paesino a 40 chilometri da qua, si chiama Siciliano. Oh. Al culmine di una sbronzona di quelle dopo festa. Che fanno fare sempre un sacco di guai, sì, invece sì, questa invece, era una sbronza piena di giudizio. Si comincia con l'idea di mettere in levare qualcosina e da lì tutti amici. Si entra in sala prove e via. Percorso, sì. Viene da sé. Una lunga strada, sì. Beh, poi il fatto di essere già amici mette quel feeling che a volte invece nei gruppi che si formano un po' per forza è proprio un po' la cosa difficile da trovare, no? Tutti fratelli, tutti cresciuti insieme, stesso ambito, stessa idea, insomma. Questo però è figo anche dei piccoli centri, perché qua a voglia in un quartiere solo a trovare uno con l'idea tua, eh? Vero? Insomma, e quindi la scelta dello ska viene da sé, Scar, Oxed, immagino all'inizio, no? In levare. Eravamo a Ibs che accomunavano tutti, poi ognuno portava dentro proprie esperienze, cioè ognuno porta comunque, cioè, non so, il grande Patrick che è l'altra chitarra, molto intenso col suono rock, è lui il corpo, diciamo, del gruppo. Poi c'era il Levale, il Ragga Fix, ecco, mi chiamano. Infatti con sti capelli, chiaro, dreddone. Il basso imponente di Mister Pattone, piano piano, insomma, ci piacevano, erano vibes che ci piacevano, good vibes. E quanti siete in tutto nel gruppo? Eravamo 6, adesso 7. No, vedi, quindi comunque un bel gruppetto. 2 chitarre, batteria, percussioni, un trombone, basso, 3 voci. Ok, ok, e diciamo che lo scappo è... Sì, lo scappo è, c'ha una... diciamo una facilità anche di trasmettersi, no? Una ritmica molto veloce ad arrivare, quindi comunque coinvolgente. Io sì, quello che ho sentito di voi comunque, insomma, è molto figo. Poi sono curiosa di vedervi. Cioè si prova, insomma. Beh, vabbè, se c'è la passione, già di solito le cose vengono abbastanza bene. Che altro ci volete raccontare di voi, per esempio? Cioè, comunque un gruppo, appunto, come hai detto, siamo, insomma, contenti di suonare per la radio. Immagino, appunto, poi che noi forse a Roma ci rendiamo poco conto di quanto poi ci ascoltano fuori di Roma, no? Quindi anche quello, insomma, per noi è un po' così, sempre un po' una sorpresa. Poi passiamo da scemi perché la gente dice: ma qui avete una radio, non ve ne rendete conto, no? Però è un po' il fatto di stare di qua che ti crea questa forma mentis. Vabbè, per noi è comunque Radio Onda Rossa è stato sempre un punto di riferimento, pure perché proprio cresciuti in un certo ambito, quindi avendo avuto certe esperienze è normale che, quindi insomma anche politicamente ben collocati, chiaro, insomma, diciamo, insomma, anche perché lo diciamo anche, no? Sì, infatti lo dite, esatto sì, infatti questa è un'altra cosa molto bella, anche dei testi non sono dei testi così tanto per cantare, ma sono veramente pieni di significato, insomma, fanno la musica anche ciò che tramanda il testo, insomma, e questa è un'altra cosa molto bella. Io un'altra cosa che volevo chiedere è che voi, mi sa che adesso uscite con un disco? Fra pochissimo, a breve. E che numero di disco è? È il terzo disco, in realtà, Tracelle Utopia, viene dopo Scasso e Riscasso e un live al Teatro dell'Applauso, registrazione live. Su questo ci contiamo, cioè ci teniamo tantissimo perché ci abbiamo racchiuso un po' tutto quello che pensavamo che è in questo momento importante, insomma, per noi. E secondo te siete cresciuti molto tra un disco e l'altro? Cioè tu noti comunque delle evoluzioni? Sì, certo, tu chiedi a te, e poi venditi, pubblicizzati. Sì. Beh, quella è un'altra bella scoperta, poi fare musica ti fa crescere anche il farlo. Lo vedo come un viaggio, no? Un viaggio di crescita comune che ci porta poi a scoprire, ad interagire. È un lungo percorso, insomma, e poi per noi è aria, e quindi il contatto con la musica proprio ci porta, ti distacca da quello che è la realtà, la pesantezza della realtà. E allora io qua adesso, visto che mi boicotta la cartellina che mi avete mandato, ho aperto il tubo, no? Insomma, vi siete anche arrischiati a fare delle cover dei Clash, eh? Cioè, che sì, assumersi una signora responsabilità. Una grossa responsabilità. Comunque, diciamo, i vostri gusti musicali spaziano ampiamente, immagino, no? Come io credo che sia giusto che sia ogni musico. Io suono poco, ma acqua, aria e musica, insomma, mi sento un po' tutto. Poi vado a periodi di rote di genere. Nella mia gioventù era rhythm and blues, il soul, ma insomma mi ascolto il metal, il punk, un po' di tutto, e credo che quello poi arricchisce, poi che uno ci sia un genere che fa suo, ma credo che il vero cibo della musica è quello anche di allargare gli orizzonti, no? Che è un po' quello che cerchiamo di fare noi, cioè cercare di portare le proprie esperienze personali nell'ambito comune, insomma. E poi è ovvio che tutto fuso da quelli che sono gli elementi, diciamo, i pilastri, no? Dagli Special, i Madness, certo, quelli che ci hanno nutrito, insomma. Lo ska, quello della nascita, dello ska, la bibbiona proprio. Sì. Va bene, se per voi sta bene, perché appunto almeno, che metto, Scasso Riscasso? O vogliamo sentire una cover di cover di Clash? Allora io andrei dal Revolution Rock, così insomma sentite subito di che portata parliamo, mica da tutti così Scasso, bustarsi. Dai. Everything is gonna be alright. no time to the battle. Hey, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This your music, mash up the nation. This your music, cause a sensation. Tell your ma, tell your pa, everything gonna be alright. Can't you feel it? Down in your red, gonna be alright. Revolution rock. Revolution rock. I am in a state of shock. So bad, bad rock. This is revolution rock. For how you slide, slide. All you did was glide. And you poured your beer in me head. We might do that on the beat, living on fixation sweet. I am got no time for that. Hey, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This your music, mash up the nation. This your music, cause a sensation. Tell your mama, tell your pa, everything gonna be alright. Can't you feel less down in your wrist? Gonna be alright. Revolution rock. Insomma, ci piate, come dire. No, anche perché appunto io poi ci siete stati segnalati, insomma, quando abbiamo organizzato questo evento del 14 novembre alla SNIA, che sapete è appunto in sottoscrizione alla radio, che come sapete quest'anno non fa il capodanno, che per noi proprio vuol dire che il piatto piagne a dirotto, altro che bombe d'acqua. E quindi insomma, nel mettere su una serie di iniziative per far rimanere questa radio così com'è, senza che si corrompa con padroni e pubblicità, e chiaramente Giorgio, Giulio, è inutile negarlo, Tribù Acustica, Radici nel Cemento, c'è un sì, insomma, c'è un enorme filo conduttore, e loro sono sempre molto carini comunque a studiare i gruppi che suonano, a volerli portare avanti. Da una parte perché loro insomma sono dei grandi, Radici nel Cemento con la radio c'è un feeling pazzesco, un affetto sconfinato, così come con Tribù Acustica, ma credo che dall'altra parte anche perché chi suona da un po' sa anche quanto è veramente molto difficile. Penso per esempio ai 1000 centri sociali, penso a Renoiz, al sogno di Renato al Cinodromo e aprire una sala prove, perché comunque chi vuole suonare, chi vuole credere anche in una passione, non solo che la nostra vita è finita a 4 euro l'ora a fargli schiavi, ma invece provare anche a fare ancora qualcosa che ci piace nella vita. Grande. Oltre ad andare a lavorare, no? E, credo che, adesso io non lo so, ma credo che sia insomma lo specchio del fatto che è veramente difficile, sa le prove che costano, è impossibile fare un CD, se tutto dovesse essere a mercato dal fonico alla saletta probabilmente sarebbe impossibile, credo, no? In realtà è difficile nel momento in cui, come dicevamo prima, no? C'è la vita reale, l'ambito reale, che è quello che ti porta a un cantiere, a far magazziniere, e arrivi la sera, comunque è sempre difficile. È complicatissimo. Sì, è difficile, però poi se tu sai che cerca di collimare tutto, cerca gli spazi, però non diventa una necessità, a quel punto sì. Comunque cerchi di fare di tutto, no? Cerchi di andare verso spazi autonomi, la sala prove, te la costruisci piano piano. Sì, sì, infatti, poi appunto alla festa della radio insieme alla Regina del Cemento c'è la percezione Sesto Senso, anche loro vengono da un piccolo centro in Abruzzo, raccontano delle mille fatiche, anche loro stanno mettendo insieme pezzi di server, piano piano si incontrano da uno piuttosto che dall'altro per riuscire a fare le prove, insomma è esattamente una battaglia quotidiana tenuta in piedi da un sogno, insomma, quindi sì. Credo che sia anche una cosa bellissima, ovviamente lavorare 8 ore al magazzino se sai che poi la sera vai a suonare pia me, insomma pia meglio che sapere esatto, che devi tornare esatto. A casa, berti il TG1 e andare depresso a dormire brava. aspettando la bomba d'acqua che mo voglio dire, ci arriviamo a Natale, aspettare adesso, io non so che sta succedendo su Roma, ma credo che insomma ecco, aspettiamo fino a Natale e quindi appunto credo che sia molto bello il fatto anche di gruppi un po' più grandi adesso al di là dell'anagraficità, però insomma questa attenzione di giovani di meno insomma sui giovani credo che sia un po' fondamentale, soprattutto quando si parla di creare musica di un certo di portare avanti musica di un certo tipo, comunque con dei testi di un certo tipo, con un'impostazione di un certo tipo, con... allora io penso che per vivere qualsiasi gruppo si trova a fare delle mediazioni, perché poi se uno riesce a campare secondo me facendo quello che gli piace, oddio, non c'è niente di male proprio, no, no? L'importante credo sia non perdere poi una radice comune, insomma, che è quella che poi appunto riempie i testi e le persone, quella giusto? Che ti ha portato a fare il percorso, insomma. Esatto. Allora io chiacchierate voi perché io intanto tiro fuori questo bellissimo brano che finalmente okay. Forse siamo riusciti e se intanto possiamo noi cominceremo come a dire no? Qualche data che dobbiamo affrontare a novembre. Dai, il 14 Alex Snia per Radio Onda Rossa con i grandi Tribù Acustica. Sì, poi casomai facciamo poche pubblicità ai locali perché sai noi siamo senza pubblicità, quindi poi me cazzo. No, ma non si tratta di locali, dai, quanti centri autogestiti qui a Roma, quindi okay. Andiamo in massima tranquillità. Poi andiamo alle officine Torma Arancia, che è una scuola appena occupata qualche giorno fa, zona Garbatella, sempre con noi più Giorgio e Giulio Tredicini del Cemento che ci vengono a dare una special guest, quindi saliranno con noi sul palco e ci faranno divertire. E il 21 al San Papier per i lavoratori dell'AMA che sono stati diciamo puniti, bisfrattati, ecco, se vogliamo. Nel frattempo ricordiamo che domenica, questa qui che viene il 9, ci sarà davanti allo Stadio Flamino un evento organizzato sempre da i ragazzi di Torma Arancia per i disoccupati romani. Ok. Ci saranno il Muro del Canto, Radici del Cemento, Brusco. Sì, insomma, ho letto eccetera, una quantità di nomi. Esatto, sì. Sì, infatti anche questo è un modo, secondo me, molto bello di portare l'attenzione su temi che ormai siamo quasi assefatti, ormai sono più disoccupati degli occupati, no? Tanto più quando poi appunto gli occupati poi sono occupati relativi, visto che hanno dei contratti che li possono mandare via dopo 5 minuti, quindi direi che è importante sostenere questo tipo di cose, così come appunto credo sia importante mantenere aperto appunto anche il lavoro degli artisti, no? Quindi riuscire a fare in modo che poi abbiano degli spazi di agibilità nell'ambiente in cui credono, ecco, mettiamola così. Allora, che faccio? Mando questa traccia che si chiama Io com'è? Vengo libero. Vago libero. Questa qui è una traccia che potete trovare sul nostro ultimo lavoro, come diceva Simone prima, Tracciolotopia, che sta per uscire. Oggi abbiamo stampato i dischi e siamo eccitatissimi. Quindi il 14 li porterete, chi lo vuole potrà comprarlo. Il 14 porteremo il disco, sì, esattamente, che verrà venduto a prezzo socialissimo di 5 euro, quindi grandi, veramente grandi. E questa è una traccia a cui teniamo in particolar modo perché oltre a una partecipazione di Daniele Goccia del Muro del Canto, è una traccia che noi sentiamo proprio veramente molto per il significato. Vi lasciamo all'ascolto e la fatevi sapere a tutti cosa... i compagni e tutte le compagne di Radio Onda Rossa. Grandi, affizzate le orecchie, allora voi che sentite ascoltate bene, eh? non ho paura della muerte e non credo nella suerte, ma ciò che vedo allora io tocco con mano, sono realista e vado oltre la mia vista, in questo mondo io sì sono un artista. Non calcolo ma vivo il mio pensiero, libero come le ali di un uccello, vivo in aria senza tempo, mentre adesso lascio l'ansia del progresso. Vago come vaga la mia mente, tra amori, tra le nuvole, scorre normalmente. Io che vago libero, sono una nuvola e io che sono niente. Beh, insomma, un po' una carta d'identità di chi siete, diciamo. Non ma quanto ci teniamo a sto pezzo? No, ma è bello, cioè, che lo diciate. Lo dico, perché... proprio no, ma fremito. Secondo me è bello pure che lo sente chi poi vi verrà a sentire, sa che anche per voi, insomma, non c'è solo il fatto di stare lì a suonare, di portare avanti il disco, ma c'è anche appunto i brani a cui uno è più affezionato. Allora vi chiedevo intanto se voi avete dei brani che, diciamo, un gruppo conscious casomai c'ha dei momenti in cui si sente una rabbia particolare che gli fa uscire quel pezzo lì. Allora mi chiedo se voi, a parte la vostra coscienza in generale, se ci sono dei brani che avete dedicato in particolare a dei momenti. Beh sì, cioè, tra Cielo e Utopia, che rappresenta l'incontro con Genova, quello che è stato Genova. Incontro scontro. Esatto. Che voi siete giovani, ma c'eravate o Genova ve la siete sentita raccontare? Era un'esperienza la Scasso Family ha vissuto. E che, no, che non ci va via, neanche adesso no. A me mi si riaccappola la pelle. È indelebile, poi, sì. Voi sapete? Ecco qui, i brividi tutti. Ecco, infatti tutti. Poi, basta il nome, insomma. Chi c'è stato, chi c'ha un fratello, lo sapete, noi abbiamo un compagno dentro per un bancomat, sì, che sì, insieme a altri quattro, insomma, si stanno facendo anni di galera allucinanti, visto anche quello che poi è stato il punire, chi devasta e chi saccheggia, chi le nostre vite, chi le devasta, chi le saccheggia, le persone, chi ha devastato le persone, lo ripetiamo fino all'infinito, dubbi. È libero, felice e promosso, e chi ha devastato le cose nel capitale, nella proprietà privata, non se deve fa. Quindi insomma ci trovate a pennello, chiaramente Genova appunto è rimasta dentro chiunque, credo che appunto poi tanto più se uno ha la musica per tirarla fuori, anche un colore indelebile, insomma, esorcizzante forse in un modo o nell'altro. Allora intanto mentre lui chiacchiera stiamo, non sapete che sta succedendo qua, si cercano programmi, cerchiamo di farvi sentire un po' tutto, ma abbiamo sicuramente un'altra puntata in cui io sì, vi rinvito, anche se vi volete portare, che ne so, due strumenti. Porteremo due, sì, così sì, casomai abbiamo una cosina che stiamo preparando. Ok, che dici? Tu ci sta? Vediamo se va. Allora ci sentiamo proprio questa qui su Genova, tra Cielo e Utopia. Si fondono col fuoco della rabbia del mio popolo, si fondono. insomma, non manca niente. Beh, un bello scaspinto, una voce bella rabbiosetta. No, mi sembra che rendono veramente al massimo quello che è, appunto, un altri mondi possibili. Altri mondi possibili, perché poi sì, nel parlare di Genova ci siamo persi spesso invece quanto avevamo ragione le parole d'ordine che abbiamo portato là in quel lontano 2001. Guarda caso, non siamo veggenti, no? Abbiamo eppure semplicemente delle idee chiarissime su quello che vediamo, non ci facciamo abbindolare, guarda qui dove siamo, no? Allora, siamo in chiusura, altri pochi minuti, poi diciamo il scazzo saranno la sigla di chiusura delle Schiena del Sol di oggi, dandoci appuntamento a giovedì prossimo. Poi vediamo se organizziamo un piccolo live qui con i potenti mezzi di questa piccola grande radio. Boom, fire. Che altro volete aggiungere di importante, diciamo, un po' quella che pensate che sia la quintessenza di Scazzo? Noi intanto ringraziamo tutti, ma veramente tutti quelli, i nostri fratelli, quelli che ci accompagnano nel percorso, e sono tantissimi, dal Bombard, al nostro amico il grafico che fa tutto e di più per noi, un abbraccio enorme. E ai Radici, Tribù, Daniele con il Muro del Canto, tutti. Andrea Mattei, che è il coccolatore di suoni, senza di lui, guarda, quello che ci prende, ci coccola in studio, ci è parte importantissima, invisibile, ma importante, sì, fondamentale, esatto. Fondamentale. È una famiglia nostra, tutta la famiglia vi ringrazia, è stato un piacere enorme condividere con voi. È bello così, perché ci si scopre, appunto, io non lo nego, insomma, finché non vi hanno nominato io non vi conoscevo, poi insomma sono pure grandicella, quindi casomai non giro tanto. Però insomma credo che poi sia bello invece aggiungere gruppi fratelli, aggiungere, sapere che insomma se gli parli della radio sanno di chi stai parlando, tu sai con chi ti relazioni, credo che questa sia veramente una linfa vitale, no? Visto che ce menano del brutto, noi invece ci ingrandiamo e non esatto, ci spaventiamo, ora è sempre resistenza mi sembra grande. Va bene, allora io ringraziandovi, che dite, che brano metto come... Rotola, ok, come chiusura. Allora, da questo disco che potrete trovare appunto il 14 novembre fresco fresco di Sfornata, e che insomma a questo punto vi consiglio, se lo stiamo ascoltando è veramente, mi sembra pieno di energia e di bellissimo ska. Allora io vi ringrazio, ci sentiamo giovedì prossimo. Good vibes. E a questo punto chissà, ci sta sentendo Alberto, eh? Dai, che ha fama, fa tutto. Un abbraccio forte a te che stai lì, e come sempre il tuo nome noi lo diciamo, ma è un po' quello di tutte e tutti coloro che salutiamo sempre, che non possono godere della loro libertà. E allora ciao, vi lascio con Rotola, gli Scasso, al 14 novembre. Rotola in fondo all'anima le mie parole. Allora guarda, ci eravamo scordati pure la collaborazione di Stefano, mamma mia Stefano, grande Stefano Cecchi delle Radici, grande, un salutone, ciao! Ascolto in silenzio e stringo con la rabbia tra le dita la mia terra. Da tempo penso di non essere me stesso. Vago in un mondo fatto solo di possesso, dove conta ciò che hai, non conta ciò che sei. E brucia la speranza mentre infiamma l'ignoranza, e resto prigioniero di me stesso. Mi chiudo, faccio ammenda, sbircio tra la folla. Mi chiedo cosa cerchi in un mondo sotto sopra. Rotoliamo tutti intorno al mondo, tondo di piombo, ferro e cemento. Rotola tutto prima di sera, qua rotola tutto, bel tempo si spera. Ah, ma per fortuna che c'è il vino che accantona le paure, me lo diceva sempre mio nonno Serafino. Grazie a queste vibration sfoglio la mia identità, mi libero di questa nostra cupa cecità. E guardo fisso il mondo sicuro di affrontarlo con la logica.